Amen. Grazie, pastore. Ci siamo? Stasera sento che siamo pronti per spaccare tutto nel senso biblico. Mi piace. Grazie, grazia. Qual è la tua urgenza? Qual è la tua urgenza? Per tutti quelli che cercano un titolo ai messaggi che noi predichiamo, questo è il titolo per te stasera. Ognuno di noi vive secondo un'urgenza. E a volte siamo noi a scegliere le nostre urgenze, a volte ci sentiamo come se sono le urgenze che scelgono noi. E quindi noi siamo quasi obbligati a correre e a soccorrere quell'urgenza. Una cosa è certa, è che la nostra urgenza determina la nostra giornata, scandendola in ogni momento. Con quale urgenza sei arrivato qui stasera? È un'urgenza vera? O è una perdita di tempo? Questa è la domanda che ci porremo stasera. Con quale urgenza noi come Chiesa dobbiamo vivere? Come figli di Dio, come popolo suo, qual è la nostra urgenza se vogliamo andare avanti insieme? Se vogliamo conquistare tutti quei territori che Gesù ha preparato per noi, per farci vivere quella vita straordinaria che Lui ci ha mostrato. Stiamo per fare un salto nel tempo e vedere e imparare attraverso la Chiesa che viveva negli Atti degli Apostoli, qual era la loro urgenza che li ha portati a vivere quella vita straordinaria che Gesù gli aveva mostrato e conquistare tutti quei territori che lui aveva detto loro che avrebbero conquistato. Ci siete? Volete andare con me in questa avventura nel tempo? Quindi ci rialziamo in piedi perché stiamo per pregare, perché stiamo per leggere dalla sua parola. Ed è molto importante per noi questa sera pregare che la sua parola possa trasformare la nostra vita. E io sono convinto che nel momento in cui io inizierò a pronunciare queste parole che sono scritte su questo libro, che sono parole vive, queste parole inizieranno già a trasformare la tua vita. E non avrei bisogno di ascoltare quello che io voglio dire, lo ascolterai lo stesso. Ma quella parola è potente. Sì? Vogliamo pregarlo insieme? Signore Gesù, ti ringraziamo perché tu hai dato a noi la tua parola, che è una parola viva, che è una parola potente, che è una parola che trasforma. Grazie perché la tua parola è come una spada a doppio taglio che penetra fino a dividere le ossa dalle midolle, l'anima dallo spirito. E questo desideriamo noi questa sera. Spirito Santo, che tu possa scendere attraverso della tua parola e che tu possa convincere noi di peccato, che tu possa convincere noi di giustizia, che tu possa mostrare noi ciò che è bene e ciò che è male e che noi possiamo essere guidati attraverso della tua presenza e della tua forza nello scegliere e nell'imparare ciò che è bene. Nel tuo nome confessiamo tutto questo, Signore Gesù, e una chiesa piena di fede dice Amen. Amen. Ci possiamo riaccomodare. Ogni volta che io predico e che ci sono tipo 40 versi da scrivere sul proiettore, c'è Leo Montarulo che li deve scrivere. E io voglio ringraziarlo pubblicamente per come lui instancabilmente, senza lamentarsi di tutte queste cose che deve copiare su quello schermo affinché noi possiamo leggerle bene, lo fa. Quindi siamo pronti. Ci troviamo appena dopo la scarcerazione di Pietro e Giovanni. Erano stati imprigionati perché avevano, attraverso la potenza dello Spirito Santo, guarito un ragazzo, un uomo zoppo dalla nascita. E i sacerdoti li avevano presi, li avevano accusati, gli avevano detto voi non potete fare questo, li avevano imprigionati, ma non avevano trovato nulla contro di loro per trattenerli in prigione. E quindi hanno detto ok, mo vi lasciamo andare. Erano un po' di bari loro, mo vi lasciamo andare. Però dovete stare zitti zitti, Non dovete dire più niente, ve ne dovete andare da un'altra parte, non dovete pregare per le persone, non dovete parlare di Gesù, non dovete dire niente, perché sennò povera a voi. Questo è quello che è successo prima. Andiamo a leggere dal capitolo 4 al verso 23 di Atti degli Apostoli. E dice così: rimessi quindi in libertà, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide, nostro padre, perché questo tumulto fra le nazioni? E i popoli meditano cose vane. I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E ora inizia una parte molto complicata per la lettura nostra oggi nel 2016, perché ci mostra un qualcosa che forse è un po' lontano da noi, ma lo vedremo insieme. La moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore e di una sola anima. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Or Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita, cipriota di nascita, avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Ma un uomo, di nome Anania, con Saffira sua moglie vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie. E un'altra parte la consegnò deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo. E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione. Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E un gran timore prese tutti quelli che udirono queste cose. I giovani alzatisi ne avvolsero il corpo e portatolo fuori lo seppellirono. Circa 3 ore dopo sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò. E Pietro disse, rivolgendosi a lei: dimmi, le disse, avete venduto il potere per tanto? Ed ella rispose: sì, per tanto. Allora Pietro le disse: perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono la porta e porteranno via anche te. Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani entrati la trovarono morta e portatala via la seppellirono accanto a suo marito. Allora un gran timore venne su tutta la chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Molti erano i segni e i prodigi che erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone, ma nessuno degli altri osava unirsi a loro. Il popolo però li esultava e sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero che credevano nel Signore, tanto che portavano perfino i malati nelle piazze e li mettevano su lettucci e giacigli affinché quando Pietro passava, almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. La folla correva dalle città vicine a Gerusalemme, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Ci sono tre urgenze che noi impariamo dalla Chiesa negli Atti degli Apostoli che abbiamo letto in questi versi. E la prima urgenza che noi impariamo è l'urgenza di pregare. È l'urgenza di pregare. Come sono stati rilasciati, non si sono persi in chiacchiere. Non si sono persi a piangersi addosso perché avevano fatto tante cose belle, però erano stati incarcerati. No! Hanno avuto l'urgenza di pregare e di pregare insieme. Pregare insieme con gli altri fratelli, accordandosi. Hanno scelto di fare squadra. E l'abbiamo letto al verso 23 e 24. Rimessi quindi in libertà, vennero ai loro. E udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio. Alzarono concordi la voce a Dio. Non avere solo l'urgenza di pregare da solo. Cerca i tuoi fratelli, cerca le tue sorelle. Loro avevano capito che insieme potevano fare la differenza. Hanno avuto l'urgenza di pregare insieme e di pregare per riconoscere la sovranità di Dio. Riconoscere la sovranità di Dio gli ha permesso di riconoscere che quello che stava accadendo era in accordo a quello che Dio aveva già detto che sarebbe accaduto. L'abbiamo letto nel verso 24 e 28. Per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Hanno avuto l'urgenza di pregare insieme e di pregare per riconoscere la sovranità di Dio su di loro e sulle loro vite e su quello che loro stavano vivendo e su quello che a loro stava accadendo. Hanno avuto l'urgenza di pregare la parola di Dio. Il verso 25 e 26 cita esattamente il Salmo 2 nei versetti 1 e 2. Non si sono riuniti per pregare le loro parole e basta. Si sono riuniti per pregare la parola di Dio. E questo ha permesso loro di comprendere che l'attacco non era rivolto a loro personalmente. Le persone non volevano fare del male a loro, ma stavano continuando ad attaccare quel Cristo Gesù che avevano deciso di mettere in croce. Quando io e te, quando tu preghi la parola di Dio, questo smaschera le mie e le tue manie di persecuzione e ti permette di avere quella giusta prospettiva per vivere quella situazione in cui ti trovi come Gesù vuole. Hanno avuto l'urgenza di pregare insieme, di pregare per riconoscere la sovranità di Dio, di pregare la parola di Dio e di pregare per continuare. Verso 29, adesso Signore considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la parola in tutta franchezza. Volevano continuare a testimoniare di Gesù con forza, con coraggio, senza tirarsi indietro. Volevano andare avanti insieme, perché avevano capito che insieme ci sarebbero riusciti. E io prego che lo Spirito Santo in questo momento possa darti rivelazione che noi possiamo andare avanti insieme, che tu non sei da solo, che tu sei parte di un noi e che noi, con l'urgenza di pregare insieme, con l'urgenza di pregare per riconoscere la sua sovranità sulle nostre vite, sulla nostra Chiesa, con l'urgenza di pregare la sua parola, noi possiamo continuare. Noi possiamo continuare con forza e con coraggio a predicare che Gesù è vivo. Hanno avuto l'urgenza di pregare miracoli. Quei miracoli che testimoniassero che Gesù era vivo. Non si sono lì fermati. Signore, ti prego. Aspetta. Signore, ti prego. Che tu puoi guarire. Aspetta, mo fammi vedere. Signore, ti prego che tu puoi liberare. Signore, ti prego, sia fatta la tua volontà. No, no. Verso 30, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Hanno dichiarato, hanno confessato, hanno reclamato. Questa urgenza di pregare ha permesso allo Spirito Santo di scendere. Questa urgenza di pregare ha permesso allo Spirito Santo di scendere perché il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo. La nostra urgenza questa sera di pregare permetterà allo Spirito Santo di riempirci. La nostra urgenza di pregare questa sera permetterà allo Spirito Santo di riempirci. Hanno avuto urgenza di pregare. Cos'altro impariamo per noi questa sera? Hanno avuto urgenza, seconda urgenza. Hanno avuto l'urgenza di rinunciare a se stessi. Gesù aveva rinunciato a se stesso, così loro. Facile. Gesù lo aveva fatto, gliel'aveva dimostrato, gliel'aveva mostrato, così loro. Verso 32. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Non vivevano più per i loro propri interessi. Non aspettavano che qualcuno li servisse. Non volevano essere serviti, ma ognuno desiderava servire l'altro tanto da provvedere anche ai bisogni primari di cui alcuni necessitavano. Il verso 34, infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano e portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ora, questa parte fa un po' di, no, le rotelle del nostro cervello si incriccano, perché quando noi leggiamo questi versi pensiamo un po', no, ai figli dei fiori, peace and love, tutto in comune, dove l'altruismo personale in realtà si perde in un egoismo comune. Non è di questo che la parola di Dio sta parlando. Io mi sono voluto documentare perché lo volevo capire. Volevo capire noi che cosa dobbiamo fare. E quello che questi versi significano nel tempo in cui sono stati scritti, per la società in cui sono stati scritti, per il principio che stanno portando avanti, è che ognuno manteneva quello che aveva mettendolo a disposizione per gli altri, in un qualsiasi momento loro ne avessero avuto la necessità. Stiamo parlando dell'urgenza di essere generosi, di essere attenti ai bisogni degli altri, di essere interessati ai bisogni degli altri, di essere disposti a servire chi c'è accanto e non pretendere di essere serviti. Stiamo parlando di non vivere le relazioni in base a quello che te ne viene in tasca, ma a quello che tu puoi dare, a quello che tu puoi fare, a quello che tu puoi dire per l'altro. Una cultura dove non pretendi sempre qualcosa da qualcuno e non ti va mai bene. Non ti va mai bene, perché tu l'avresti fatta meglio. Ma dove dai quello che hai a chi ti è accanto, perché tu vuoi benedire l'altra persona. Di questo stiamo parlando. Dove non ti lamenti se la pasta è troppo dolce o è troppo salata. Oggi si mangia di nuovo la stessa cosa, o forse è troppo al dente, o forse è troppo scotta, o che paranoia sempre le verdure, o non mangiamo mai il pesce, o non mangiamo mai la carne, ma sei grato per il piatto che hai. E dici bene di chi te lo ha preparato. Di questo stiamo parlando, sono piccole cose. Una cultura dove sei grata o sei grato di come l'aspirapolvere viene passata. E non stai lì a rinfacciare che ha fatto due volte a destra e tu gli avevi detto che doveva fare tre volte a sinistra. Sei grato. Sei grato perché vuoi servire e non ti aspetti di essere servito. Questa urgenza di rinunciare a se stessi ha permesso alla fiducia di crescere. Quando la Chiesa, negli Atti degli Apostoli, ha capito che c'era un'urgenza di rinunciare a se stessi, ha permesso alla fiducia di crescere. La nostra urgenza di rinunciare a noi stessi questa sera permetterà a noi di non pensare male, ma di pensare bene. Permetterà a noi di essere ripieni dei pensieri che Gesù ha per le persone, e non dei tuoi, e non di quello che tu vuoi, ma di quello che tu puoi dare, di quello che tu puoi fare, di quello che tu puoi dire, di come tu puoi servire. Urgenza di pregare, urgenza di rinunciare a se stessi. Terza urgenza che impariamo da questa storia è l'urgenza di arrendere ogni cosa. Se vogliamo conquistare quei nuovi territori, per raggiungere quei posti dove non siamo ancora arrivati e dove non siamo ancora andati, dobbiamo imparare a vivere l'urgenza di arrendere ogni cosa. È ormai da diversi anni che io voglio arrendere ogni cosa. E io lo voglio veramente. E me lo sono predicato tante volte da solo. No, sai quelle prediche che ti fai da solo? Che tu fai la predica, poi tu fai l'appello, poi tu vai avanti all'appello. È un grande successo. Poi tu ti inginocchi a quell'appello, poi tu piangi, perché piangi sempre quando ti fai la predica. E poi dici, sì, io rispondo a questa predica. Me lo sono predicato tante volte. Me lo sono cantato. Lo cantiamo pure adesso. Me lo sono sottolineato nella Bibbia. Mi sono fatto una ricerca tipo topica per tutte le cose che dove mi devo arrendere. Me lo sono scritto su 850 milioni di post-it. L'ho appiccicato nel bagno, sullo specchio, quando mi vado a lavare i denti. Me lo sono messo nella Bibbia, me lo sono messo nel portafoglio, me lo sono scritto sull'agenda, me lo sono scritto sul cellulare. Quando lo accendi, che c'è il messaggino, no? Prima usciva. Ah, e c'è la frase. E la sveglia. Tutto. Ma non lo so fare. Io non lo so fare. E ci ho provato tante e tante volte ad arrendere ogni cosa. Ma ogni volta che arrendo ogni cosa, sono lì che me la voglio riprendere. E qualche settimana fa ero qui alla casa di preghiera. E durante il momento di adorazione mi sono inginocchiato così tanto che ho messo la mia faccia per terra. E gli ho detto, Signore Gesù, io voglio arrendere ogni cosa. Io voglio arrendere ogni cosa a te. Ma non lo so fare. Io non so come devo fare per farlo. E lo Spirito Santo mi ha risposto. E lui mi ha detto, io lo so. Io lo so che non ce la puoi fare. Perché tu hai paura. Hai paura di arrendere ogni cosa. E stai facendo proprio come Anania e Saffira, che sono venuti davanti alla mia presenza, si sono inginocchiati ai miei piedi, e hanno voluto arrendendo ogni cosa, ma in realtà stavano trattenendo una parte per sé. Non è stato un bel sentimento quello che ho provato in quel momento, ma Gesù mi ha fatto capire che non è più il momento di trattenere nulla per noi. Chiesa, non è più il momento di farci conti in tasca e calcolare come dobbiamo fare domani. Perché domani dobbiamo imparare a dipendere completamente dallo Spirito Santo. Basta a trattenere per te quello che Gesù ti ha chiesto. Basta a dire lo voglio lasciare e poi te lo vuoi ritrattenere. Basta a fare la finta di andare davanti a lui e dire sì lo voglio, però in realtà non lo voglio. Questa urgenza di arrendere ogni cosa nella Chiesa primitiva ha permesso alla Chiesa di dipendere dallo Spirito Santo. Questa urgenza di arrendere ogni cosa ha permesso alla Chiesa di dipendere dallo Spirito Santo. La nostra urgenza, questa sera, di arrendere ogni cosa permetterà a noi di dipendere dallo Spirito Santo. Permetterà allo Spirito Santo di compiere opere potenti attraverso della nostra vita arresa a Lui. Perché è la nostra vita arresa allo Spirito Santo che permette a Lui di realizzare opere potenti. E l'abbiamo letto, verso 12. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone, ma nessuno degli altri osava unirsi a loro. Il popolo però li esaltava. E forse gli altri non vorranno unirsi a te. Forse la tua famiglia ti criticherà. Forse i tuoi amici ti giudicheranno. Forse gli altri ti metteranno da parte. Ma non per questo non riconosceranno chi è Dio. Non per questo non vedranno la sua opera miracolosa nella tua vita e attraverso della tua vita. Non per questo noi non vedremo moltitudini di persone raggiungere la salvezza come già sta accadendo. Perché l'abbiamo letto nel verso 14 e 16, sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero che credevano nel Signore tanto che portavano perfino i malati nelle piazze e li mettevano su lettucce e giaciglie affinché quando Pietro passava almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno e la folla accorreva dalle città vicine a Modugno portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti erano guariti. Quando noi, come Chiesa, vivremo in unità l'urgenza di pregare insieme, di pregare per riconoscere che Dio è sovrano, di pregare la Sua parola, di pregare per continuare e non fermarci, pregare miracoli che dimostrano che Gesù è vivo, quando noi vivremo l'urgenza di arrendere noi stessi, di rinunciare a noi stessi, quando noi vivremo l'urgenza di arrendere ogni cosa, allora noi saremo come la Chiesa negli Atti degli Apostoli e conquisteremo quei territori che Gesù ha preparato per noi e dove noi non siamo ancora arrivati e vivremo quella vita straordinaria che Lui ci ha mostrato. E sono rimasti 6 minuti e 20 che erano dedicati a me che parlavo, ma io voglio lasciare a noi da vivere con lo Spirito Santo. Quindi ci vogliamo alzare in piedi e vogliamo praticare la prima urgenza. E io non so se tu sei qui da 40 anni, non so se sei qui per la prima volta, non so se sei qui da... non lo so. Io so che noi siamo una Chiesa che non ha vergogna di inginocchiarsi davanti a Dio per ricercare la Sua faccia, perché contemplando la Sua faccia la nostra fede viene rinvigorita, viene rinnovata. E noi lo vogliamo fare. Noi vogliamo fermarci adesso insieme e vivere l'urgenza di pregare. Pregare la Sua parola sulla nostra vita. Pregare insieme. Tu sai quali sono quelle promesse, quei versi che sono chiave nella tua vita. Questa sera è arrivato il momento di rispolverarli e di pregarli sopra di te, perché non li hai pregati abbastanza. E forse 40 anni fa te l'hanno detto. E pensi di averlo pregato abbastanza? No! C'è l'urgenza di pregare. E noi lo vogliamo confessare. E lo vogliamo fare insieme. E non ci vogliamo tirare indietro. E vogliamo vivere l'urgenza di rinunciare a noi stessi. Tu sai quello che tu devi rinunciare di te stesso. Tu sai che cosa significa ricevere quella fiducia che pensa bene e non pensa male. Tu sai che significa perdonare quella cosa che non riesci a lasciare andare. Questa sera puoi vivere l'urgenza di rinunciare a te stesso, di rinunciare a quel sentimento. Non ti serve, non ti serve, lascialo. Adesso puoi vivere l'urgenza di arrendere ogni cosa allo Spirito Santo. E voglio che noi ci sentiamo liberi di venire qui avanti, di uscire dai nostri posti, di metterci in ginocchio, di prostrarci davanti a Lui. Se sai che devi arrendere ogni cosa, arrendila. Esci. Non pensare a quello che l'altro deve arrendere. Pensa a quello che tu devi arrendere. Non pensare a quello che l'altro penserà se tu devi arrendere. Perché tutti abbiamo da arrendere. Perché non siamo ancora quella Chiesa. Non lo siamo ancora. Ma noi lo possiamo essere. Perché se loro ce l'hanno fatta, che stavano peggio di noi, noi possiamo farcela. Lo vogliamo fare? Io voglio pregare, ma da come inizio a pregare io vorrei che noi vivessimo un tempo di intimità con lo Spirito Santo. Vorrei che dietro ci fosse tranquillità. Vorrei che i volontari rispettassero questo momento. Vorrei che noi stessimo davanti a Gesù, perché Lui merita, e perché Lui è degno, e perché Lui ti vuole. E vuole che tu vivi l'urgenza di pregare davanti a Lui, vuole che tu vivi l'urgenza di arrendere ogni cosa, vuole che tu vivi l'urgenza di rinunciare a te stesso. In maniera libera veniamo avanti se vogliamo farlo, confessiamo le parole del canto, andiamo a qualcuno per pregare, viviamo questo momento di arresa. Signore Gesù, vogliamo onorare la Tua presenza in questo posto e Spirito Santo, vogliamo confessare e dichiarare che Tu sei Dio e che noi abbiamo bisogno di Te. Noi da soli non lo sappiamo fare. Noi da soli non lo possiamo fare. Vogliamo venire alla Tua presenza. Vogliamo confessare la Tua parola sulle nostre vite. Vogliamo rinunciare a quello che siamo. Vogliamo rinunciare a quella mancanza di perdono che non riusciamo a dare, perché Tu ci hai perdonato e perché noi possiamo imparare da Te. Vogliamo rinunciare a noi stessi e arrenderci alla Tua gloria, arrendere noi stessi, ogni cosa di noi alla Tua gloria, e noi non lo sappiamo fare. Noi ci proviamo, ma non ci riusciamo. Abbiamo bisogno di Te. Spirito Santo, che Tu possa convincere il nostro cuore questa sera, che Tu possa trasformare la nostra vita affinché noi non siamo più gli stessi, per la Tua gloria in noi.